come la congiura di Catilina. Io non ho niente. Non ho niente di quello che vi serve. Non ho niente di quello che siete venuti a cercare. Niente di niente. Io non ho niente e niente vi do. Perché quando sei chiuso, hai chiuso e ti senti un nulla e non hai nulla. E mentre qua dentro tutti si raccontano, qua dentro non ci sta niente da dire. E io vi prometto che non vi dirò più niente. Quel niente che mi basta per farmi essere qualcosa. Dovendo dare alcuni posizionamenti detti utili, dobbiamo dirvi alcune posizioni dette utili. Là un luogo, lì un altro, o a ridosso, a distanza, in forma circolare, riferendoci direttamente o come ponte concettuale al succedersi degli eventi, o facendo chiara luce sui modi di riferire fatti in una forma d'arte. Così riassumendo in forma astratta una storia, descrivendo un sistema applicato più volte da uomini e donne per il dominio di cose e spazio utili, per posizioni dette utili, che hanno luogo là, mettendo un altro lì, a ridosso, a distanza, facendo circolare denaro, riferendoci a cose ridette del passato come ponte concettuale sul nostro presente, il presente del qui ed ora, dello spettacolo stesso, che è anche il presente della nostra storia economica e politica, il sempre presente che si ripresenta sempre. Siamo dunque al 16 aprile 2013 e rappresentiamo la congiura con i nostri occhi fermi su di voi e i vostri su di noi. Gli attori si collocano ora qui, ora lì, in forma circolare, dispiegando in forma astratta una rappresentazione intorno alla congiura. Diamo negli antefatti. Crasso, uno dei più ricchi faccendieri dell'antica Roma, già massacratore dello schiavo ribelle Spartaco. Spartaco! Ah, mi ha fatto sgocciolare di merda le toghe! Spartaco, Crasso è deciso a prendere il potere assoluto e a diventare dittatore, assassinando i nuovi consoli dubbiamente eletti alla fine del 65 avanti il povero Cristo. Un colpo di stato in combutta con il giovane Cesare, che è suo debitore di somme enormi, gli obbedisce in tutto, più un certo numero di giovani malmessi finanziariamente, lì emerge il nostro Catilina. Crasso vuole diventare imperatore, Cesare generale, tutti gli altri sognano posizioni di prestigio e ricchezza, diciamo come i nostri ministri. La congiura ha però timore della forza militare di Pompeo, nemico di Crasso, impegnato nella guerra asiatica, una guerra che sta provocando gravi crisi economiche al popolo romano che non usufruisce dei proventi dei saccheggi. Insomma, il rischio di un rientro di Pompeo, di una sua autoproclamazione, la resistenza dei banchi creditizi fanno desistere Crasso dal tentativo di colpo di Stato, così tutti rientrano nei propri ranghi con un niente di fatto, chi continuando ad accumulare denaro, chi a sperperarlo. Catilina si sente schiacciato e tradito, sempre più disperato, indebitato, viene anche imbrogliato durante il suo tentativo di farsi eleggere senatore, tradito proprio da Crasso e Cesare, che prima finanziano la sua campagna elettorale e poi lo lasciano senza denaro quando è il momento di comprare voti, come il povero improbabile tentato sindaco di Roma. Catilina vuole una vera vendetta, vuole prendere lui stesso il potere, vuole una congiura tutta sua, Crasso e Cesare, proprio loro lo assecondano ancora, facendoli arrivare ancora denaro e congiurati. Catilina pensa di doversi giocare il tutto per tutto e comincia a tenere comizi rivoluzionari, addirittura paventando la libertà per quegli schiavi. Ma sciagurato non sa di essere l'utile pupazzo di tutti. Ed è proprio su questa sua improvvisata congiura che il giovane Cicerone, già suo avversario nelle elezioni, trova modo di fare carriera. Anche lui indirettamente asseconda gli eventi, amplificandone portata e significati, per potersi scagliare contro, dando a tutta la faccenda colori foschissimi e al suo ruolo quello di salvatore della patria. La Repubblica è in crisi. La crisi finanziaria che avvolge l'impero rischia di farlo implodere e il potere delle banche e della finanza si fa ogni giorno di più potere politico diretto. Sì, sì, io vedo dal suo sguardo che pensa a noi. Ora, ora, stiamo parlando di ora, dove si rappresenta come la congiura di Catilina. Smettetela con queste illusioni! A dar credito a questa vostra storia! A continuare la vostra schiavitù! Non si nasce schiavi! Non si nasce schiavi! Io sono nato proprio schiavi! Sono nato schiavo! Non dovete il vostro corpo e il vostro tempo a nessuno! Prendete tutti i vostri debiti e la vostra fatica e date fuoco agli uffici, alle banche, ai palazzi! Nessuno può essere padrone del vostro corpo! Del vostro tempo! Non si nasce schiavi! Ora! Ora voi due basta! Basta! Coro! E ogni volta si terrorizza, e ogni volta si cerca il modo, il consenso al peggio, e ogni volta è per voi l'unica volta possibile, l'unica scelta, l'estrema realtà, l'inevitabile successione, è il necessario aiuto, il necessario intervento, l'impossibilità a sottrarsi, l'emergenza senza appello, al sacrificio, alla rinuncia, al bombardamento umanitario. Pace! È sempre l'inevitabile successione di eventi a cui dover rispondere, ai quali aderire! Sedute! No, cioè, non è che, ma... Cioè, nell'insieme la cosa, allora, è Catilina! Perché? Sì, ora, non è che, cioè, se si capisce che... Cioè, io in quanto Cicerone, dico, no? Cioè, sarebbe che... Cioè, io in quanto Cicerone, no, sarebbe, che io in quanto Cicerone dico Catilina! Ma voi, cioè voi state lì a sentire, io, ma Crasso, cioè meglio no, Craxi, vabbè, Craxi, cioè andare su Craxi ora no, però, cioè, voi Catilina, voi Catilina, allora, se Crasso e Cesare, sì, cioè, ma anche, fanno un po', ma anch'io però un po' così, non è che se tutti si fa, allora si è un po', ma, tutti si fa, e allora si è, sì. È solo un branco di discorsi, sto cicero, tu ti muovi per allusioni, tutte cose che ti fai per te, ben costruite per te, ma solo per te. Che poi a me, mica me ci tiri dentro, stronzo! Ma che te credi sa fa? Ma che scenetta è? È un mezzo ricatto, con tutto sto cincischiare, a cicerone! Ma che cazzo vuoi? No, tu Crasso! Crasso allora... che? Allora se c'è Cesare... Cesare, per favore non mi tirare fuori Cesare! Allora, non hai capito? Tu ti occupi di Catilina! E a me Cesare ci lasci fuori! Tu da Catilina tua ci tiri fuori il tuo bel guadagno! E per te io e Cesare non esistiamo! Ci lasci indostamo! E quello, quelli lì semmai... Per Cesare c'ho altre idee! Cesare! La storia è lunga e va scritta passo passo. Ora tiri, ora giri, ora vedi. E quindi Cicerone, occupati del tuo e lavora su Catilina come detto, che te lo diamo bello e confezionato. Te lo diamo volentieri. E lo fai fuori e infami pure chi te sta sul cazzo. Te lo gestisci solo e soltanto tu. E a noi ce lasci indostamo. E dove siamo noi Cicerone? Allora, io sì, mi siedo magari, gestisco un po' e... Sono cazzi grossi, Crasso, ma molto grossi! Qui quel cretino ci tira dentro il suo tartaglio politichese e va a finire che con Catilina si fa tutto il Senato e a noi ce la butta! Non lo puoi fare, Cicero, è vero che non lo puoi fare! No, cioè, per l'amor del cielo, Catilina, gli diamo un po' di soldi, cioè, io mi... Stai tranquillo che io l'ho capito che sei un bravo uomo! Tutto a posto per cicciorotto di Crasso tuo, vatti a mettere a sede! Ma ti fidi di quello, di quello? Ma sì, che c'è la sintassi giusta, era democratico! Ma anch'io sono democratico! Anch'io. E chi non lo è in questi tempi? Noi, schiavi, non ci lasciamo! Noi, merda! Schiavi, non ci merda! Ma chi vi ha detto di andare? E voi, che diavolo aspettate ad entrare? No! Ma Cesare, perché sei sempre così dubbioso e ansioso? Saranno i debiti! E come sei brutale, Crasso? Pensa che non ti riesce ad essere affinato per di una cosa? Devi sempre sottolineare tutto e lascialo vivere! E lo lascio via che sì, con tutto quello che mi deve! Anzi, speriamo che viva e lavori fin quando non mi ha ripagati sti debiti! Questo tuo atteggiamento persecutore lo mette solo in soggezione! Non lo vedi come va giù, poverino! Sei sempre a premere, poi ti lamenti che diventa impulsivo! Cesare! Povero Cesare! Povero sì! Non c'è neanche da pagarmi la candidatura! E dai, che te la paga Crasso! E Crasso dice tanto, ma poi il suo Cesare e ci tiene! Ci ha sempre tenuto! E figurati che la volta che non c'eri si è pure messa a piagne! Sì, sì! Tenero, Crasso! E insomma, ma che schifezza è questa? Ma che stiamo qui a fare le comari di Windsor? Da qualche parte e bisogna pur farlo capire che è Crasso! A Cesare gli vuole bene! Sì, sì, gli vuole bene! Diglielo, Crasso, a sti invidiosi banian cazzo! Una banda di falliti che se non c'era Crasso stavate tutti a casa! A casa! Banda di lesbiche! Puttane E passiamo al complotto! Complotto? Non si cita mai un complotto nel testo, ma espressamente una congiura, con trattino, giura. Il giurare con, il giurare contro, lo stare con e lo stare contro, al tempo stesso. Boia! Sì! Pigliami un Catilina, insomma! Ma c'ho da, e se lo finisco qua? Ammazzalo e fammi a prendere un Catilina là in mezzo! Prova ad ammazzarlo, ma... Sentito? Questa battuta si mette perfettamente in una continuità tra cornice, personaggio, storia e inscenamento. Sì, ma non muore lo stesso. E ammazzalo! Le ho già detto che è due giorni che lo ammazzo e lo riammazzo, ma non muore. Digli. È proprio vero che non muoio. È strano, lui mi ammazza. Io soffro, sembra che muoio, ma poi sono sempre vivo. Sentito, lo dice anche lui. Sì, sì, lo dico. Poveraccio, anche lui non ce la fa più a farsi ammazzare. Sarebbe meglio morire a una certa, no? Che no, farsi ammazzare di continuo. Grazie. Ma lo vedi, poi alla fine si diventa anche amici. Nel frattempo che uno aspetta di farsi ammazzare, certe amicizie ci stanno. È la nostra ormai una grande amicizia. State zitti! Ed ora lascia lo schiavo vivo e vabbia a prendere un Caterina. Ma dove? Tra il pubblico, mio boia. Il pubblico si fa così. Catilina stesso. Dove dice lui? Sì, purtroppo. Ma lui scrive ste puttanate e io devo farla andare. Prendilo dal pubblico e tu vai a quel paese, autore da strapazzo! Ma... chi? Posso prendere anche una donna? Interessante! Il ribaltamento! Senti, boia! Prendine uno che sia uno e basta! Ma no! Con quella faccia! Ma prendine uno che ti somigli! Che mi somiglia? Ma se deve durare ancora tanto, l'andiamo a prendere noi, sto Catilina! Mi ci manca solo il coro delle bevitrici! Io non sono ubriaca! Basta! Anche io! Tra il pubblico! Tra il pubblico, vai! Questo mi somiglia! Guardate questo! Mi somiglia! No! Ah, magari non è proprio uguale, ma mi somiglia abbastanza. No! Questo mi somiglia. No! Questo? No! Quello? No! Mi somiglia. No! E i denti, anche i denti, guardate i denti. E le braccia, anche le mani sono tipiche dell'assassino. No! Guardate gli occhi, pesanti, maligni. No! Vabbè, ho capito, ho pescato male. Ne piglio, ora ne piglio uno che è proprio catelinesco. E piglia quello e facciamola finita! È possibile che ci vogliano due ore per prendere uno stronzo di Catilina? Così si prende uno qualsiasi, un attore inconsapevole. E lo si porta al centro della scena. Diventa così un Catilina qualsiasi, il Catilina qualunque, il buono per ogni stagione, un congiurato scelto, uno tra i molti che soffrono, che infliggono ingiustizie. Lo si porta al centro, lo si prepara, lo si lancia. Lo si paga! No, allora andate avanti voi, vi fate la commedia vostra e il coro d'ora in poi. Sta zitto, sedute! E meno male, il pubblico ne soffrirà sicuramente desta perda. Sono due ore che stiamo qui zitti a aspettare sto cazzo di Catilina, mo che c'è, fatecelo lavorare! Ne abbiamo avuti di migliori però, un po'... Brutto! Mer brutto! Direi pure che fa schifo al punto giusto! Una merda d'uomo che alza polvere di merda! E le speranze dei mediocri come a lui! Come a loro! E dare il meglio di sé! Ovvero del suo schifo! È il migliore! Il migliore! Ne hanno preso un altro! La cattiveria che si nasconde fra di voi! Che vi somiglia e vi interpreta! Che vuole il peggio! Parlando del peggio! Proponendo il vaffanculo del tutto uguale! Il vaffanculo utile ai vostri diritti! Il vaffanculo utile al vostro bisogno! Merda! Merda! Così risulta uno schifo! Ma quanto deve durare ancora? No, aspetta, il coro c'è, il coro sì, va e dice... Cicero, il coro è pagato, falla andare! Coro! Bravo! Coro di San Lucio! Grande Cicerone! Grazie! Lucio Catilina, tu, di nobile stirpe, di ingegno vivace e corpo vigoroso, d'animo perverso e depravato! Fin da giovane portato ai disordini, alle violenze, alle rapine, alla discordia! Con un fisico che resiste ai digiuni, al freddo e alle notti, intrepido e subdolo, incostante e abile simulatore, avido scialacquatore, sfrenato puttaniere, preso dalla smania di potere di una Roma corrotta, dal lusso e la cupidigia. Quindi non è corrotta solo la mente dei congiurati, ma tutta la plebe al completo, che è avida di cambiamenti, sta con te, Catilina. Tutti gli invidiosi dei benestanti, che violenti detestano l'ordine. Catilina seduce chiunque abbia più debiti che lavoro, perché la miseria rende immuni da perdite e certi d'ogni incertezza. Così i figli di famiglie della nobiltà si sono convinti ad assassinare ciascuno il padre e nella strage aprirsi la strada col fuoco per raggiungere Catilina. D'ora in avanti, coi cappotti! Allora io vado, vado, sì. Allora, sino a quando, Catilina, intendi dunque abusare della nostra pazienza, eh? Per quanto ancora questo tuo comportamento fazioso si prenderà gioco di noi? Sino a che punto si spingerà la tua illimitata... Prontatezza! Non ti turbano le pattuglie armate che perlustrano la città, l'angoscia del popolo, l'accorrere di tutti i cittadini onesti. Non ti accorgi che i tuoi progetti sono scoperti, eh? Non ti rendi conto che il tuo complotto è ostacolato dal fatto che tutti qui ne sono a conoscenza, eh? Credi forse che qualcuno di noi non ignori cosa hai fatto la notte scorsa e quella precedente? Scusa, dove sei stato? E quali congiurati hai convocato? E quali decisioni hai preso, eh? Credi che il Senato non sappia con chi ti accompagni e perché? Catilina, di te e dei tuoi sappiamo! Cicerone, una domanda! Cesare, di no! A che cosa stai girando intorno? Perché il finale del discorso? E non torna! Sì, perché non parli delle coppe di sangue umano miste a vino per il giuramento dei congiurati? Questa è roba forte! Questa è roba forte! E spiegalo, Cicero, chi so sti congiurati e non so forse quei criminali degenerati, adulteri e puttanieri e quei giocatori indebitati nei bordelli che hai pescato tra la plebe o tra i falliti come a lui! Catilina! Oddio, la capacità di attirare i giovani con le loro menti ancora in forma così malleabili e che li assecondava procurando loro donne, comprando cani e cavalli. Ma chi gli dava i soldi, Vaia! Cesare! Stermina il coro! Cesare, ha deciso! È da solo! Armatevi! Mi sa che è un problema, le vedo parecchio. Non ti spaventa la rivolta, Cicerone! No, aspetta, si dovrebbe un po', cioè, non è che... Vieni avanti, servo di Troia! Mi fanno una paura! Quando ha mandato le prime legioni contro Spartaco? Spartaco! Ammazzalo! Perdonate, signore, ma ora c'è l'impegno di massacrare il coro! Come fate a parlare? Queste legioni sono tornate sconfitte da uno schiavo e io le ho fatte decimare, sapete come? Come, Crasso, come? Verberazio! Cioè? Abbastonate! Sì! Non ci si fa sconfiggere degli schiavi! Sì! 4.000 soldati uccisi a bastonate sulla testa! Una pozza di sangue mai vista! Uno spettacolo vero! Traballavano sotto i primi colpi e poi rantolavano a terra... lungo i pali, pezzi di cranio e di cervella su tutto il campo contornavano i corpi, dalle quali spuntavano come ossa i rami che li avevano trafitti, pezzi di cranio e di cervella penzolavano dalle mascelle insieme ai denti e agli occhi come un ricamo di nervi. Fai quel che devi! Ferme! Io sono certo! Grazie! Del vostro coraggio! Il momento è propizio! È ora il momento di prendere in mano il potere! State con me in questa impresa! La più difficile e la più alta! Bravo, Catilina! Per il bene comune e contro il male di pochi! Di ogni corruzione e privilegio! Bravo, Catilina! E non è per me che resta tutto com'è, come sempre è stato, come Cicerone vuole e come questo Senato pretende! Bravo, Catilina! E pretende di tenere tutto e tutti per la gola! Di gestire tutti gli affari di crediti e debiti a proprio vantaggio! Qui, bravo, noi, Catilina, rivendichiamo la nostra libertà! Da quando la Repubblica è caduta in mano a un gruppo di potenti ai quali versano tributi, solo loro pagano imposte, popoli e nazioni. Gli altri, noi, coraggiosi ed onesti, nobili e non nobili, non siamo che volgo, senza autorità, senza prestigio. Mentre loro costruiscono palazzi sul mare, noi non abbiamo un tetto sulla testa. Loro demoliscono case nuove per costruirne di diverse, con patrimoni che non si esauriscono mai, infiniti come la loro depravazione. Ma perché non vi risvegliate? Qui, qui la libertà mille volte invocata è a portata di mano, è la ricompensa che la fortuna offre a chi vince. Ma più che le mie parole vi siano di sprone il momento, il pericolo, il bisogno, le splendide prede, servitevi di me come capo e come gregario. Il mio cuore e il mio braccio non si sottrarranno mai, mai, mai e poi mai. Io questo lo farò con voi e solo con voi quando sarò console, sempre, sempre che non mi sbagli. E voi non siete più adatti a far da serve che a comandare. Ma che devo fare? E che accidenti vuoi fare? Tu ammazzi lo schiavo. Giustizi Catilina, il coro rientra nei ranghi e chiudiamo sta merda di performance. E se ci rientra anche Grasso? Grasso paga anche te. Senti, vediamo di fare ordine. Boia dei miei stivali, ammazza lo schiavo subito. Quando non sanno cosa dire ci rientro io. Vado. Aspetta, io in un certo senso poi vado, cioè, al Senato, no? Così, allora, gli schiavi, ok, ma bisogna ammazzare Catilina con gli schiavi, scusa. Senti, cioè. Cicerone, ti fai la congiura tua, te la confezioni per bene, ti prendi poteri straordinari, compresa una guardia personale, leggi speciali, antiterrorismo, te la riconfezioni e ci lasci in pace. Per non ricominciare sempre da capo, dai, su. No. Perché ci sarebbero delle lettere che... Ma le ho se le fatte! Tutta una serie di nomi che io... Ma che è una minaccia! Vai, ammazza Cicerone! Non credo che... Grasso Cesare, ma che cazzo contate qua dentro se si può far ammazzare soltanto uno schiavo? Non è che si può togliere Cicerone ora! No, poi ho altri nomi, cioè, voi no, Io... Prossimo sei tu! Fai come ti conviene di fare, ma prima lui, Catilina... Deve sollevare il polverone con il popolo, le aristocrazie, gli artigiani, urlare contro il senato! E perché dovrei fare quel che dici te? È l'unico modo che ha per uscirne, infame, e noi te lo finanziamo! O te, o Cicerone, vinca il migliore, che a noi va bene così! Sei un pezzo di merda, Grasso! Ma non meno di te, Catilina! Oh, ecco il cagnolino alla guardia che abbaia! Non hai capito che se non vai avanti con noi non va da nessuna parte! Tanto io a questo punto sono fregato comunque! A me invece sembra chiaro, ora l'atteggiamento di Catilina, che la vera congiura la stia facendo Cicerone! Che si fa fare le lettere dagli amici di Catilina, che si crea alleanze con gli alleati di Catilina, che vorrebbe mettere i nostri nomi nelle lettere che fare Catilina! No, ve l'ho appena detto, io i nomi non... Togliamogli la testa, non lo sopporto più! No, lasciamolo lavorare! Lasciamogli eliminare Catilina e rinforzare la sua bella repubblica! È giusto! Ma sentite questi stronzi, per questi quattro soldi di merda! Diciamolo chiaramente! Urliamolo forte! Qua. Che qua si lavora per chiudere questa specie di repubblica! Questa farsa di democrazia! Dove si mette a capo del governo un socio delle banche! Con il con il senato comprato e terrorizzato di perdere i suoi privilegi! Urliamolo forte! Questo Catilina serve solo a spaventare e a sedare la vera lotta! Sono Grasso Cesare a tramare! E Cicerone è il loro strumento per neutralizzare al momento giusto Catilina! Loro lo spingono! Poi lo sabotano! E alla fine Cicerone lo condanna! E intanto cresce la sua notorietà! Il pagliaccio del Senato! Così in cambio potrà liberarsi dei suoi nemici! Ma è chiaro che tutto è nelle mani della ricchezza di Grasso! E nei debiti di Cesare! Questa democrazia è giorni contati! E la crisi finanziaria strangolerà ogni collo che vorrà aprire la bocca per dirlo! Vi vogliono ridurre come la Grecia! Una colonia delle banche! Una colonia dell'impero! Urliamolo forte! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! così vi fate prendere in giro. Non c'è appena stata la scena che Crasso spiegava la sua posizione. Ma che razza di scena di contestazione è dire quello che è stato appena detto? Se voi contestate, contestate. Ma così è come dire che io governo, tolgo i soldi ai pensionati e voi andate in piazza ad urlare che vogliono togliere i soldi ai pensionati. E dunque, ma che informazione fate? A che serve? Se te lo hanno appena detto, che diavolo urlate? Una telefonata del primo ministro? Ma non c'è logica! Rispondi solo a chi ti paga. Venduto! Venduto! Arie fritte! Oh! Lo schiavo! Si è mosso! Ha fatto le contrazioni nervose, non lo vedi? Ah, lo fa. Dice che se ti strangolano dopo ti ritiri. Ma che fa? Ma no, è vivo! È vivissimo! E lo ha preso! Tiralo per il palo! Ma che tiro? Attenta, no? Ma scusa, proviamo a tirargli dell'acqua anche a lui. Ma poi affoga! Ma come fate a affogare se è morto? Ma non è morto! È mortissimo! C'è anche l'altro! Ma questa cara di merda, ma come? Io l'ho appena ammazzato! Mi ci è voluto tutto il giorno! Oh. E poi loro! È vivo! Lo vedi uno di tutto per lavorare bene! Allora. E poi risorge! Coro finale di Sallustio! È già la fine? Ma va a finire che non muore nessuno qui! Non muore nessuno! Che cazzo, Crasso? Come che cosa hai finanziato? La ballatina di Catilina! Allora, braga! Colpa mia! E non sarà colpa tua, ma il tuo ruolo sarebbe quello del boia, e che il boia produca morti! No, no, no, aspetta, Catilina, cioè, quello deve morire, no, altrimenti il pubblico c'è, che sta a fare, no? E c'ha paura, Cirone! Cirone! Ho detto coro finale con coreografia! Ma che coreografia! E coi cappotti anche voi, coro di merda! Qui si travalica il senso di una cosa normale! Le coreografie non le abbiamo mai avute e mai provato a farle. Se si vuol produrre coreografie, che si paghino dei coreografi. E in più, i cappotti erano per i protagonisti e basta. E visto che qui noi siamo tirate fuori dal grosso dello spettacolo, i cappotti te li schiocchi in culo! E sia chiaro a tutti! Sì. Che il coro dovrebbe riportare la voce del popolo, mentre qui si fa Sallustio che se la racconta come gli pare ai Cesari. Non si ha una vera concezione artistica sulla quale muoversi. Bra. Per dire qualcosa che abbia un senso e che dia un senso al nostro lavoro. E aggiungo, sono d'accordo con la mia collega, se si vuole costruire un progetto che abbia un senso, le diverse parti sociali devono poter dialogare, essere in grado di produrre una dialettica che abbia un'efficacia tra la produzione e i lavoratori dello spettacolo. Ma qui siamo come sempre nel dileggio dei nostri diritti di lavoratrici. Qui si è costruito un sistema di separazione tra le parti che produce l'isolamento del lavoratore. Ah sì! Sì! Avete cominciato eliminando le mense comuni aziendali con i buoni pasto. Avete minacciato la nostra possibilità di incontrarci, di raccontarci e di confrontarci. Voi avete lavorato sulla vita stessa del lavoratore. Sì! E comunque allineate, sguardo fiero, seguite i miei movimenti. Oh, noi no, noi no! Noi, lavoratrici, facciamo anche il sacrificio della coreografia a termine. Vendute! Finita la battaglia, solo allora si poté constatare quale fosse l'ardire, la forza d'animo dei combattenti di Catilina. Catilina fu trovato lontano dai suoi, in mezzo ai cadaveri nemici. Respirava ancora un poco, nel volto l'indomita fierezza che aveva da vivo. Di tutto l'esercito non fu catturato nessun uomo libero, né in battaglia né in fuga, né peraltro l'esercito del popolo romano riportò una vittoria. senza lacrime e sangue. I più valorosi erano morti nel combattimento o ne erano tornati gravemente feriti. Molti usciti dal campo per guardare o spogliare i morti, nel voltare il cadavere dei nemici riconoscevano chi un amico, chi un ospite, chi un parente, chi avversari personali. Così varie trascorrevano su tutto l'esercito gioia e mestizia, esultanza e dolore. Certo, io muoio così. Vengo qui, decidono che mi devono ammazzare. Me ne fanno di tutti i colori e poi muoio in un discorso del coro di Sallustio. Catilina, di. Ma Sallustia mi sta micchia! Io mi sono rotto il cazzo di questa gestione delle cose. Qua non c'è una situazione che si concluda in qualche maniera logica con questa banda di egocentrici. E difatti guarda come stanno messi, che scazza su tutto. Invece di rendere tutto più chiaro, più coerente, fanno le astrazioni, fanno. Allora io vorrei che il pubblico prendesse coscienza che questa radio e che tutti i soldi che ci girano dentro non hanno un senso! Perché io che sono uno spettatore, come voi, io vi chiedo di ribellarvi a questa dittatura delle cazzate! E allora vaffanculo! Vaffanculo a questi ruffiani! Mangiapane che vi tengono qui a fare da spettatori passivi alle loro malefatte, mentre si pigliano tutto, mentre vi pigliano per il culo, perché sono tutti uguali, loro, quegli altri, sono capaci a prendere, ma siamo noi spettatori di questo spettacolo osceno che dobbiamo reagire, diventare noi attori di un nuovo modo, di una nuova epoca, riappropriarci del bene comune e mandare a casa questi vecchi rimasulli di regime che stanno attaccati al loro posto per farci la recetina dei cazzi loro. E allora vaffanculo. Fuori, baia! Basta, ci ha rotto il cazzo, diciamo. Bene. Crediamo che sia bene far luce su queste faccende terribili e confuse, diffondendo a pro vostro una limpidità necessaria a concludere. E citeremo dunque un maestro di storia e di storie, che nell'attraversare questa desolata terra di ingiustizie, vide nella congiura di Catilina un'analisi dove le banche sono state ininterrottamente in trattativa con Pompeo per farle assumere la dittatura, ma non sono riusciti a mettersi d'accordo con lui sugli appalti fiscali e doganali in Asia. La City ha in ballo in Asia più di 1 miliardo di sesterzi. Da principio le banche hanno finanziato Catilina perché volevano esercitare una pressione su Pompeo finché questi era un po' guardingo con i suoi contratti d'appalto. Volevano mostrargli che c'erano anche altri personaggi ai quali ci si poteva rivolgere per la dittatura. Il signor Catilina e il signor Crasso. E che oltre alle sue legioni asiatiche c'erano anche le bande catilinari e tutto il gregge elettorale del signor Cesare. Dunque il problema non era stato se ricattare il Senato e marciare insieme a lui contro Catilina, combinazione Cicerone, o ricattare Catilina e marciare con lui contro il Senato, combinazione Crasso, ma soltanto come ricattare il signor Pompeo. A questo scopo avevano creato a Roma la necessaria inquietudine per mezzo della fuga di capitali, per questo hanno pagato al signor Catilina, al signor Cesare, al signor Cicerone. E quando finalmente Pompeo cedette, ecco alzarsi improvvisamente il grido per la difesa della Repubblica, la grande aria di Cicerone sulla democrazia. Avevano appena dato il consenso per la dittatura di Pompeo, ma la City non ce l'ha fatta, neanche lei. I suoi contratti asiatici con Pompeo non valgono neppure la carta dove sono stati scritti, il Senato non li sanzionerà mai. E anche la massa di disoccupati romani non ce l'ha fatta e hanno perso la partita. Proprio quelle masse che volevano far paura al Senato e alla City avevano paura degli schiavi extracomunitari. Questo crollo scuoterà tutto l'impero fin nelle fondamenta. Un applauso dovuto e presente al maestro Bertolt Brecht. Grazie. Sì, è tutto ben detto, ma permettetemi di dire che dal nostro punto di vista noi non abbiamo sbagliato a considerare tutta questa faccenda